e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Una vecchia mattonella per ballare. Di più di una vecchia mattonella qui a Cersaie, il salone della ceramica per l'architettura e l'arredo bagno, dove siamo per la seconda puntata consecutiva di Cuore e Denari. Ci sono delle soluzioni innovative e incredibili nel mondo della ceramica, ne parlavamo proprio poco fa a microfoni spenti, e di queste novità naturalmente parleremo anche con voi ascoltatori. Veniteci a trovare intanto, se volete, il nostro studio è nello stand 1 presso il centro servizi Agora dei Media. Nicoletta, quindi noi ci troviamo molto bene qua. Molto, ci abbiamo lasciato gli occhi e il cuore. Adesso finita la trasmissione andremo a fare un altro giretto. Ieri abbiamo fatto il tuffo nei mosaici e ci siamo divertite molto. Però già un ascoltatore ci chiede: la borsa non la fate più? Pronti? Sì che la facciamo. La facciamo pronta. Dopo. Anzi, la sigla. La fa Deborah. Dentro Cuore Denari. Oggi siamo in rialzo su Milano, di nuovo terza giornata consecutiva di quadro positivo per Milano, rialzo di un punto percentuale. Vi segnalo i titoli che stanno facendo meglio: Saipem è +2,5%, con Mediolanum +2,5%, Monte dei Paschi +2%. Più tardi faremo un quadro più dettagliato, ma l'argomento della pagina di Denari oggi è un altro, perché naturalmente, essendo qua, parliamo della nostra casa, di come ci piace sognare di rinnovarla, cambiarla, ristrutturarla. A volte i denari sono un po' un ostacolo in questo senso, ma per fortuna ci sono i bonus fiscali. 65% di risparmio fiscale per lavori di riqualificazione energetica dell'abitazione, 50% di sconto fiscale per i lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria. Ne abbiamo parlato tante volte qui a Cuore Denari, ma la bella notizia è che quasi certamente verranno prorogati questi bonus anche per il prossimo anno, ormai sono quasi pressoché strutturali. Quindi 800 24 00 24, raccontateci cosa vorreste cambiare in casa vostra, se vi siete già informati su quanto costerebbe, a che materiali state dando un'occhiata, sapete già se sarà possibile per voi usufruire del bonus fiscale. 349 238 6666 è il numero per i vostri messaggi. Non ci sono invece bonus fiscali per la ristrutturazione che vi proponiamo oggi. Non mi dare questa notizia per la ferale. Pagina di Cuore, perché noi parliamo del nostro viso, che può tradire in modo più o meno evidente il passare degli anni: macchie, macchioline, rughe, cedimenti, occhiaie e borse. Insomma, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Meno male che con l'età si diventa presbiti. La natura ha buon cuore e ci fa un po' degli sconti. Comunque voi fate un saltino davanti allo specchio, osservate, vi fate un bel sorriso e tornate 800 24 00 24 se volete sapere come cancellare i segni del tempo, tornare a dare soprattutto tono e freschezza alla vostra pelle. Ci raggiungerà il professor Antonino Di Pietro, che è dermatologo, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis a Milano, e mi raccomando, voi non perdetevi questa occasione, perché è un appuntamento molto importante per dare una risposta a tutti i vostri dubbi. Se volete sapere se funziona l'acido ialuronico, quali sono i peeling, che cosa sono le novità, quali sono le novità della cosmesi, chiamateci 800 24 00 24, ristrutturiamo la casa e anche l'inquilino della casa, no? Tutto una ristrutturazione fantastica. State con noi. Luca, sei sicuro che non abbiamo sbagliato casa? L'avrete riconosciuta, Paola Marella, conduttrice televisiva, ma forse sarebbe più corretto dire professionista della intermediazione immobiliare prestata con grande successo alla televisione a cui si è affezionata. Io ricordo, per chi non avesse avuto modo di seguirla, ma in realtà ci sono all'ascolto tanti appassionati delle sue trasmissioni di grande successo, Cerco casa disperatamente, Vendo casa disperatamente, Welcome Style, Arredo casa disperatamente, e insomma anche la 33esima edizione del Salone Internazionale della Ceramica per l'architettura dell'arredo bagno la vede come madrina. Allora noi l'abbiamo incontrata proprio ieri, dopo il suo taglio del nastro di questa manifestazione. Abbiamo chiacchierato con una vera esperta del settore sullo stato di salute del mercato che gira intorno alla casa in Italia. Lei l'ha potuto osservare molto attentamente in questi anni di crisi. Sentiamo cosa ci ha detto in questo primo contributo. L'italiano ha una grande propensione verso la casa, questo l'abbiamo sempre detto, lo continuo a ribadire e io ne sono sempre molto convinta proprio in virtù anche dei programmi che faccio. Io incontro il cittadino semplice, perché al di là di Cerco Casa, che tra parentesi non è in registrazione, che era il sogno, l'aspirazione, tutti gli altri programmi invece io incontro personaggi che hanno una vita assolutamente come tutti e quindi hanno le esigenze di tutti. E devo dire che per loro la casa è importantissima, per cui è vero c'è meno risparmio, c'è molto meno risparmio, perché noi arrivavamo negli anni, fine anni 90, primi anni 2000, da un ventennio dove avevamo alle spalle un grandissimo risparmio, noi tutti. Adesso questo risparmio si è molto affievolito, lo sappiamo molto bene, e purtroppo, ahimè, anche le spese si sono un po' ristrette, però... Il cittadino ama fare qualche lavoretto in casa e da lì il successo comunque delle trasmissioni tipo il Vendo Casa e tipo il Welcome Style, che hanno segnato, ma soprattutto il Vendo Casa, quell'idea del lavoro con poco. E allora ci chiederemo se è davvero così, se è possibile fare un lavoro bello di rinnovamento e di ristrutturazione, farlo però con poco dispendio dal punto di vista economico. Questa mattina qualche suggerimento in questo senso ce lo faremo dare dal nostro architetto Rita Campana, che salutiamo, ben ritrovata, perché ormai è diventato nostro ospite fisso di questo appuntamento qui a Cersaie. Grazie, grazie. Benvenuta. L'architetto Campana, peraltro... Lei non ha bisogno di ristrutturarsi il viso. Guarda, eh? È di una bellezza... È troppo buona. È vero, è vero. Poi magari ci fotografiamo insieme, non per fare un confronto, però mettiamo... possiamo incuriosire gli ascoltatori, poi non la facciamo vedere. Dai, vabbè, è carino da parte nostra. Detto questo, l'architetto Campana coordina anche qui a Cersaie questa iniziativa che si chiama Disegna la tua casa, di cui parleremo tra qualche istante. Ma Paolo Marella si soffermava sul fatto che l'italiano ama molto la sua abitazione, lo sappiamo, insomma è un grande investitore nel mattone, pur nelle turbolenze del mercato negli ultimi anni. Lei è d'accordo con il punto di vista della Marella? Insomma, c'è attenzione anche alla manutenzione dell'abitazione, a parte il fatto che si può fruire dei bonus fiscali, ma anche spendendo poco, la manutenzione costante del patrimonio edilizio italiano? Qual è il suo punto di vista? Sì, sono d'accordissimo sul fatto che l'italiano vede la casa veramente come qualcosa a cui è affezionatissimo, qualcosa che è veramente importante più che in altri paesi. Per noi investire sul mattone, come si diceva, è qualcosa di importante, qualcosa per la vita, e quindi è giusto che ce ne prendiamo cura, anche perché è un posto in cui torniamo a casa la sera dopo il lavoro, in cui vogliamo rilassarci, che deve essere il nostro nido, che ci protegge un po' da tutto lo stress quotidiano. Ed è giustissimo pensare a un discorso di manutenzione continua, perché poi è il modo in cui possiamo risparmiare un po', perché trascurare un po' il nostro appartamento, la nostra casa per tanti anni, porta poi a dover invece fare interventi che possono diventare più pesanti dopo. Certo, allora raccontateci come la pensate su questo argomento, un vero argomento di cuore e denari, quello della casa, Nicoletta, no? 800 24 00 24. Diteci anche qual è la stanza preferita, se la vostra camera da letto, se il soggiorno in cui ricevete magari gli amici, la cucina, il bagno, perché il bagno, io guardo, vorrei trasformare la mia casa in un grande bagno dopo venuta qua al Cersaie, perché è vero? Sì, abbiamo visto delle cose meravigliose. Bellissime. Allora, delle proprio stanze da bagno. Sì, è vero, vero. Si può, come dire, fare davvero qualcosa di eccezionale, però i costi non sono indifferenti. Allora facciamo un punto sui bonus fiscali, quindi diamo la buona notizia, soffermiamoci su questo. Partiamo intanto con le novità, perché sembra che sia ormai sicuro il rinnovo per il 2016. Come sembra, architetto Campana, questa notizia, dal suo punto di vista, questi bonus fiscali sono in grado di tenere a galla o dare una spinta al settore dell'edilizia, di tutto l'arredo che ruota attorno al mercato del mattone italiano? Secondo me sì, è un'iniziativa importante, quindi è un ottimo incentivo per chi vuole ristrutturare, sia per chi si vuole proprio pensare a una ristrutturazione importante, ma anche per chi vuole fare piccoli lavori. E anche perché molte volte la ristrutturazione diventa un impegno economico importante sul bilancio familiare, quindi il pensare che ci possa essere restituito in parte la spesa che andiamo ad affrontare è sicuramente un incentivo a proseguire con questo tipo di intervento. Allora, mi stava segnalando, allora, sì, esatto. Perché quando voi dite il bonus fiscali, eccetera, sì, ecco, lo ricordiamo che non arriva l'assegno di Renzi a casa per restituirci i soldi non che abbiamo speso. Non è il bonus, esattamente, eh? Perché molti, ecco, pensano perché, che questo risparmio, no, del 50%, tu spendi 100 euro per fare un lavoro di ristrutturazione, dopo un mese 50 esatto, te ne tornano. Non è proprio, no, così. No, no, architetto Campana, le faccio fare l'architetto fiscalista. Va in benissimo, questo momento. Si trasformi un po', cambi pelle. No, assolutamente. È importante naturalmente sapere che l'impegno economico va ovviamente anticipato, perché il bonus fiscale è una detrazione sull'IRPEF. Ciò significa che noi su quello che teoricamente andiamo a spendere, verseremo di tasse. Insomma. Esatto, su quello che verseremo di tasse, se avremo un rimborso, anzi un recupero, uno sconto, sì, un recupero, sì, su quello che dovremo pagare di tasse rispetto a quello che abbiamo pagato, esatto, nella ristrutturazione. E non tutto insieme. Casa più bella, tasse più leggere. Esatto. Ti piace? Esatto. E questo, esatto, recupero, direi, fiscale che è lo non slogan avviene. Giusto. Cosa ho mangiato stamattina? abbiamo fatto colazione insieme, ma io ho mangiato le tue stesse noci, non capisco qua come sia potuto. Io sono meno lucida. Correre. No, allora, e poi il recupero avviene in un tot di anni. Esatto, se esatto, quello per la manutenzione straordinaria in quanti anni, avvocato Campana, stavo chiamando ormai anche un'altra professione, architetto Campana, quello per il recupero, per la manutenzione, per la riqualificazione energetica, in quanti anni recuperiamo? Allora, il recupero avviene in 10 anni, quindi 10 anni con una rata di pari valore, perciò noi dobbiamo essere consapevoli che questo recupero avverrà naturalmente in questa decina d'anni. Mm-hmm. 800 24 00 24. Allora, naturalmente continuate se volete ad intervenire in diretta, vedo che già in molti vi state candidando a porci la vostra domanda. Volevo sentire subito Francesco da Milano, perché anche questo caso ci dà l'opportunità di chiarire un'altra questione. Per chi non avesse mai sentito parlare fino ad ora, con tutte le puntate che sono state fatte, sono 10 anni che questi bonus ci sono, a qualcuno invece questa notizia che ci sono questi bonus fiscali. C'è sempre qualcuno che non si inizia accorge a sentire cuore denari. Esatto, quindi no, ma direi che non è neanche seguito professionalmente bene, perché non è possibile che un architetto, un geometra che ti fa il lavoro in casa non ti dia anche, certo, tutte le indicazioni necessarie alla, come dire, a completare l'istruttoria anche dal punto di vista fiscale. Quindi mazziamo anche i suoi collaboratori. Ma magari ha fatto un lavoro da solo. Tra l'altro sono già le 10.45. Francesco, sì, Francesco, buongiorno, da Milano, benvenuto. Sì, buongiorno. Ci, senta, dica. Ho già usufruito di questa legge dell'abbattimento per le spese di ristrutturazione, ah, ecco, nel 2000. Sì. Nel 2000, e quando, sì, era il 41%, perché io ho ristrutturato, sì, una villetta e ho sostituito serramenti e vetri e tutto. Adesso mi trovo nelle condizioni di sostituire nuovamente una vetrata di questo serramento, che ha un costo abbastanza elevato. Volevo sapere se potevo usufruire della nuova legge per rifare l'abbattimento, o avendo già usufruito una volta non posso più farlo. Grazie Francesco. Allora immaginiamo di sì, architetto Campana. Io direi Campana proprio di sì, per il fatto che comunque naturalmente le detrazioni si riferiscono a una ristrutturazione, quindi questa, se si colloca come nuova ristrutturazione, può rientrare. Bisogna vedere se il tipo di intervento si colloca come nuova ristrutturazione, certo, o come riqualificazione energetica. Quindi eventualmente, magari se lei dovesse seguire i lavori in casa di Francesco, che cosa gli suggerirebbe di fare? Di mettere mano magari ad un altro tipo di lavoro in casa per, esatto, poter fare una pratica, esatto, completa? Esatto, perché se ad esempio in questo caso è soltanto una semplice sostituzione dell'infisso con un infisso di pari prestazione energetica, già non c'è la riqualificazione energetica. E se la sostituzione dell'infisso semplice non comporta opere murarie, anche qui rientriamo in una manutenzione ordinaria, che quindi, certo, non rientra nella detrazione del 50%. Dobbiamo andare in onda del traffico, mi pare di capire. Qua abbiamo delle sollecitazioni dalla nostra Isottina un po' rigide. Andiamo a sentire. Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Vi presenta. Cuore e denari. Ho aspettato che il refrain fosse completo, perché sennò gli ascoltatori non riescono a ricordare che siamo qui a Cersaie, a Bologna. Vi raccontiamo come si rinnova la nostra casa, ma anche di come si muove un settore, un mercato importantissimo. Tema che abbiamo affrontato ieri con la nostra amica Paola Marella, nota conduttrice televisiva ma soprattutto professionista nell'intermediazione immobiliare. Nella pagina di Cuore Denari di Facebook troverete presto la versione integrale dell'intervista che abbiamo realizzato ieri con Paola, che ci ha dato anche il suo punto di vista sullo stato di salute del mercato immobiliare, a cominciare dai numeri dei mutui che sono stati diffusi negli ultimi giorni. Più 86% nelle erogazioni dall'inizio dell'anno, ma è un tema che ha fatto molto discutere perché, abbiamo ribadito più volte, si tratta del settore surroghe ad essere particolarmente vivace. Sentiamo il suo pensiero su questo. Mutui 86%, un dato sorprendentissimo. Il mercato sicuramente oggi è favorevolissimo perché abbiamo dei tassi sorprendentemente bassi. Questo è molto positivo. Aiuta un mercato che sta avendo i primi barlumi di luce dopo sette anni di crisi nerissima, dove non si vedeva la luce. Quest'anno è stato ancora un anno che è partito con lentamente, adesso si sta muovendo. Col secondo trimestre abbiamo i primi segni più sul numero di compravendite, che di fatto è il segnale davvero rilevante, perché poi il resto conta meno, secondo me. Quindi il primo segnale positivo, aspettiamo a vedere, perché la tendenza comunque dei prezzi è ancora al ribasso, a parte alcune città, ma su tutto il resto è comunque in discesa il livello dei prezzi. Noi avremmo tantissimi stranieri che vorrebbero comprare da noi, che potrebbe aiutare, no? 50% di domanda in più dall'Inghilterra, che però si perde. Ma sapete perché? Per le questioni legate alla fiscalità incerta in Italia. Infatti, non hanno nessuna certezza di questo investimento, di come potrà essere tassato dal punto di vista fiscale, pertanto si blocca. Ma poi non abbiamo la chiarezza. Cioè non abbiamo la chiarezza, abbiamo dei meccanismi arcaici, lentissimi, complessissimi, che se non hai un commercialista non riesci a dipanare, perché non riesci. Ti dico, mi ha sorpreso questo dato, e questo è un dato veramente significativo: più 50% di domande rispetto all'anno scorso, e non il più invece sul numero, cioè non c'è stata la realizzazione. Architetto Campano, è vero che un buon architetto, per fare la manutenzione straordinaria o lavori di ristrutturazione di una casa, deve essere accompagnato da un commercialista? In parte sì, in parte sì, perché comunque, per quanto noi possiamo fornire naturalmente le basi per poter procedere a tutto questo, a questo tipo di detrazioni fiscali, io consiglio sempre comunque il privato di rivolgersi al proprio commercialista, perché ogni caso naturalmente è a parte, quindi ci possono essere situazioni che possono rientrare all'interno di queste detrazioni, altre meno. Certo. Come in certi casi ci sono regimi fiscali agevolati e quindi insomma è sempre meglio avere anche l'opzione di un esperto in Un'altra più. Raccomandazione che diamo ai nostri ascoltatori, perché anche su questo punto vedo che c'è molta confusione: per avere il bonus fiscale il contribuente, la persona che fa questo lavoro di ristrutturazione, deve pagare i professionisti con bonifico bancario, altrimenti non può ricevere nulla. Quindi è la banca che poi dimostra al fisco che tu hai fatto questo lavoro, lo hai pagato con un pagamento tracciabile, e quindi puoi ottenere la detrazione fiscale. Non si può pagare con assegno, tantomeno in contanti, perché sennò non esiste traccia di questo lavoro, no? Assolutamente, i lavori devono essere pagati tramite bonifico, proprio per la tracciabilità. Benissimo. Architetto Campana, prima di sentire Pierluisa da Monza, che cos'è Disegna la tua casa, questa iniziativa che si rinnova qui a Cersaie e che la vede impegnata in prima persona? Allora, Disegna la tua casa è arrivata al quarto anno quest'anno, e secondo me è un'ottima opportunità per chi ha voglia di rinnovare, migliorare la propria casa, e quindi avere un'opinione dai professionisti delle testate, delle maggiori testate giornalistiche, ma anche dai consulenti delle aziende espositrici che partecipano all'iniziativa. Quindi il privato può venire, avere una consulenza che lo aiuta nei primi passi della Si deve della portare una piantina di casa? Anch'io pensavo, perché io non l'abbiamo portata, mannaggia. Ma può portare la piantina, ma possono anche essere i primi consigli, anche sulle finiture, sui colori, sugli accostamenti o sul tipo di materiale. Senta, che cos'è la cosa più bella che ha visto qui a Cersaie? Nel senso, non voglio fare la pubblicità al salone. a parte noi devi specificarlo. Esatto, perché se no... archiviato questo punto, però senza voler necessariamente fare pubblicità a questo salone che tanto parla di sé tra i professionisti, non è che ha bisogno del nostro supporto, ma l'idea innovativa più avvincente che l'ha vista, quella che anche se lei mi raccontava insomma che va molto in giro, quindi in realtà tutto quello che vede qua già lo conosce molto, certo, bene, ma qual è nel materiale, nella soluzione per un'abitazione, qualcosa di particolarmente forte e avvincente che sta andando adesso tra... Allora, in generale direi che più che il prodotto magari singolo, il fatto che comunque sia un comparto che offre veramente tantissime possibilità sia a livello di formati che di texture. Ci sono delle riproduzioni del legno, delle pietre, dei marmi che raggiungono veramente dei livelli qualitativi incredibili. Devi andarle a toccare per capire, sì, no, ieri, per capire che sono, del legno. Esatto. Il legno, sì, la ceramica che sembra legno, sì, è incredibile. Sì, sì, sì. Oppure ad esempio il ritorno di queste maioliche, delle vecchie maioliche in cemento, dei formati esagonali, permettono veramente una personalizzazione incredibile e di raggiungere un po' tutti i gusti. Si va anche persino in confusione, tante cose belle ci sono. Sì, allora sì, abbiamo sì. pochi secondi, faccio fare la domanda a Maria Luisa da Monza in 20 secondi, poi le rispondiamo dopo il giornale radio. Maria Luisa, veloce, buongiorno. Buongiorno, io non voglio fare una domanda, ma vi voglio proprio dire una cosa. Le persone anziane con la detrazione fiscale debbono aspettare 10 anni per sì. avere poi i rimborsi, mi sbaglio? Sì, allora ecco, non mi ricordo se c'era è cambiata perché sì, prima c'era la possibilità di farli prima di 5 anni, è stata esatto. Però credo che qualcun altro per lei, se fosse possibile, possa incaricarsi del lavoro e avere l'abbattimento fiscale. Maria Luisa, ne parliamo dopo il giornale radio. 800 24 00 24, il numero verde disponibile per i nostri ascoltatori. Torniamo dopo le informazioni dal GR. Recupera, ha vinto, straordinaria impresa di Mennea. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, è finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Sono Dario Ricci, vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti, ogni domenica alle 20.30, qui su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Scienza delle donne per cambiare il pianeta è il tema della 16ª edizione di Donna, Economia e Potere, il seminario internazionale della Fondazione Bellisario. 20 relatrici provenienti da tutto il mondo e 300 tra imprenditrici, manager e professioniste si confronteranno a Milano venerdì 2 ottobre alle 15 presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo e sabato 3 ottobre alle 10 in Expo Padiglione Italia. Non perdere l'appuntamento con la leadership femminile. Per accreditarsi, info@fondazionebellisario.org. State ascoltando un programma offerto da... Lo sanno tutti. Rocchetta, acqua della salute, depura l'organismo. Plin plin. Cuore e denari. Ma se vuole le posso toccare personalmente? Il trucco non serve a niente! Non c'è niente che serva più! Rugosa, rugosa, piccola attrice, fa che non si veda la cicatrice. Si possono avere 30 anni e dimostrarne di più, ma c'è anche chi ha una pelle più giovane di quella anagrafica. C'è un'età biologica e un'età cutanea, però non sempre coincidono. Merito o colpa dei geni, ma anche dello stile di vita. Il fumo, ad esempio, oltre a tutti i danni che provoca alla salute, invecchia anche alla pelle, si vede ad occhio nudo. Ma è stato anche dimostrato da una ricerca su un campione molto vasto e rappresentativo. Il viso dei fumatori e delle fumatrici mostra segni di invecchiamento più evidenti e più precoce rispetto a chi non fuma. Ci sono poi delle zone del viso però che invecchiano più precocemente di altre, anche che se non dipendono dall'abitudine al fumo, come la parte superiore del viso, che si segna di più per una serie di ragioni che vanno dalla dieta non equilibrata alla mancanza di attenzioni quotidiane all'esposizione esagerata del sole. Quindi macchie, rughe, rughette, zampe di gallina, cedimenti, oggi ci occupiamo di ristrutturare il nostro viso. 800 24 00 24, qualcosa si può fare, rassereniamoci. Eccoci una nostra regia. Allora, grande disimpegno da modificare come meglio crede. Questa parete può andare giù benissimo. Questo era un vecchio cesso, un vecchio bagno. Qua la finestra si può chiudere e fare un grande lucernario da sopra, con una bella luce che scende giù, e poi la vasca se la sposta come gli pare. E adesso, sa dove entriamo? Entriamo nel punto di diamante della casa, il salotto. Senta, ma non è un po' troppo piccolo? Marcello, stammi a sentire. Tu questa casa non la capirai mai se la vedi così com'è. Tu te la devi immaginare per come sarà. Hai capito? Immaginare per come sarà. Vuoi che te spiego come la vedo io? La mia amica Rosalba dice che bisogna guardare in prospettiva, immaginala in prospettiva. Lei è una grande artista della ristrutturazione, ne ha fatto un sacco di lavori nelle sue case, però non per tutti è sempre facile immaginare la nostra casa diversa, rinnovata, ristrutturata, e qualche volta può pensare anche a tutto quello che dovremmo spendere, ci altera un po' il pensiero. Caspita. Probabilmente, però insomma ci sono i bonus fiscali, come abbiamo ricordato questa mattina, ci sta dando una mano l'architetto Rita Campana. Volevo per un attimo tornare alla chiacchierata fatta ieri con Paola Marelli, perché c'è una parte particolare della casa che lei consiglia di ristrutturare. Sentiamo cosa ci suggerisce. Buttatevi nelle ristrutturazioni dei bagni, perché in Italia, nelle case degli italiani, ahimè, quello che soffre ancora molto sono i bagni. Buttiamoci in queste ristrutturazioni dei bagni. Io sono la prima che ho fatto una ristrutturazione del bagno l'anno scorso, perché non mi piaceva più. In casa, essendo in casa, si può fare, diciamolo che si può fare, che non è una cosa drammatica, che cambiare un bagno non significa che il costo sia folle, perché oggi ci sono dei materiali, e qui a Cersaie possiamo veramente trovarne, sbizzarrirci e trovarne di tutti i tipi e generi, ma anche economicamente contenuti. Allora, se parliamo di rifare un bagno solo da un punto di vista estetico, veramente è contenuto il discorso, possiamo arrivare anche a spendere, perché poi a me piace giocare con le ceramiche e anche con l'intonaco, per cui non necessariamente rivestire completamente un bagno vecchia maniera, per cui giocare un po' con, quindi anche si risparmia un po' sulla metratura. E ti posso dire che arriviamo con un 3.000 euro a fare anche esteticamente un lavoro super dignitoso. Certo, se dobbiamo mettere mano all'impiantistica che magari è di 60 anni fa, e allora lì bisogna andare a vedersi la braga e la verticale, l'orizzontale, sì. Lì ovviamente bisogna andare a sentire cosa ci dice un idraulico, ma diciamolo che non è una spesa importante. Architetto Campana, anche secondo la sua esperienza il bagno è la stanza più rifatta in assoluto dagli italiani, e davvero si può spendere una cifra ragionevole per impegnarci in questo lavoro? Sì, è la stanza più rifatta, anche perché comunque in questi anni la concezione del bagno è cambiata tantissimo. Una volta era il bagno, punto. E magari in tantissimi edifici degli anni 60, 70 ci sono questi bagni strettissimi, lunghissimi, quindi poco funzionali. Perciò rifare il bagno vuol proprio dire aumentare tantissimo la funzionalità della casa, di come viviamo la casa, e anche in un futuro eventualmente, in occasione di una vendita, ha sicuramente un valore diverso il fatto di avere il bagno rifatto. Mm-hmm. In quali casi possiamo stare entro una spesa di circa 3.000 euro, che era forse la cifra che Paola Marella sì. aveva suggerito? Proprio nel caso in cui vogliamo cambiare un po' le finiture, mm-hmm. quindi nessuna demolizione, nessun cambio di Perché già la demolizione, anche se non è l'intervento un po' più costoso, però comunque comporta naturalmente l'intervento di un muratore. Quindi potremmo andare sopra ai rivestimenti che ci sono attraverso, ad esempio, le ceramiche a spessore sottile, quindi 3 mm, oppure addirittura con della resina o dei microcementi, quindi ricoprire quello che è il rivestimento, il pavimento attuale, con un altro materiale Chiaro. Sottile. Allora, eravamo rimaste in sospeso con l'osservazione dell'ascoltatrice di Monza, che era un po' perplessa per il fatto che la restituzione dei bonus fiscali avviene in tanti anni, e quindi dice: io, potendo fare questi lavori, come posso aggirare eventualmente la normativa per poterne fruire, però andando incontro a questo periodo così lungo? C'è un'altra persona che può incaricarsi del lavoro, magari lei sostenendo la spesa, o anzi al contrario? Allora, potrebbe essere un discorso del familiare, quindi le fatture devono essere intestate naturalmente al familiare e il bonifico deve essere effettuato dal familiare. Poi, sperando che naturalmente la nostra ascoltatrice possa usufruire completamente delle detrazioni, nel caso in cui, o in altri casi in cui non sia possibile, comunque la detrazione passa all'erede, quindi comunque non viene perso il rimborso a livello appunto del fiscale. Allora, poi tra l'altro trovare tutte le informazioni anche magari su questi casi sul sito dell'Agenzia delle Entrate, dove ci sono i vademecum sulle sul sito dell'Agenzia delle Entrate trovate due guide che sono utilissime, una per la ristrutturazione, l'altra per la riqualificazione energetica, dove vengono proprio approfonditi tutti i temi di come ottenere la detrazione, chi può ottenerla, quali sono i tipi di interventi, quindi secondo me sono utilissime e anche ben scritte. Allora, non c'è il vademecum sulla ristrutturazione del nostro faccino, su questo Nicoletta tra poco ci darà tutte le indicazioni necessarie. Non so neanche se possiamo mettere qualche cosa sopra la nostra faccia, magari più sottile, una resina di 3 mm non credo armato. Che sia sufficiente. Sentirei, prima di salutare l'architetto Campana, Antonio da Catanzaro con l'ultima domanda per oggi, poi scriveteci, perché Rita Campana, oltre ad avere un bellissimo blog su un sito di una testata concorrente, che è Repubblica, lo segnalo, però insomma è un bel lavoro per cui noi non siamo gelose, magari ci aiuterà anche a rispondere in privato agli ascoltatori che ci chiederanno una consulenza e un aiuto. Antonio, benvenuto. Salve, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, il quesito che volevo porre è questo. Io sono di Catanzaro, ho dei figli che studiano a Roma. Allora, ho comprato una casa a Roma intestandola a loro, no? E mio figlio risulta ancora nel mio stato di famiglia e ho fatto i lavori di ristrutturazione con le fatture e i bonifici intestati a me. Ora mi succede che mi dicono che non avrei diritto a questa detrazione in quanto l'agevolazione spetta a chi ha dei titoli reali o personali sugli immobili. Però io, leggendo su internet l'agenzia informa, c'è un paragrafo subito dopo che dice: ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore, quindi io, convivente del possessore, che è mio figlio, che è suo figlio, cioè, purché sostenga le spese e siano a lui intestate bonifici e fatture. Allora, Antonio, che il figlio sia residente con lui. Antonio, aspetti lì. Allora, diciamo che a spanne ci sembra che Antonio abbia ragione. Esatto. Magari faremo uno studio approfondito in privato per capire se è realmente così. Supporteremo l'architetto Campana, che fa un altro lavoro, non fa solo il fiscalista, appunto. Sentiremo magari il nostro Luca De Stefani, quindi chiedo a Marco da Milano di prendersi i riferimenti di Antonio, così lo aiutiamo in privato. Però ci sembra che in realtà possa aver ragione Antonio. Sì, ha ragione assolutamente dal punto di vista del convivente. Bisogna cercare di capire appunto se col fatto che non so se il figlio abita già fuori casa o meno, quindi cercare di capire un po' nello specifico della situazione se è applicabile questo tipo di... Solo un ultimo suggerimento, un'ascoltatrice chiede: l'anno prossimo deve rifare bagno ma anche la cucina. Sulla cucina, secondo lei, l'intervento più interessante da fare qual è, per la funzionalità? Adesso mi rendo conto che la domanda è molto generica, però un suggerimento per una cucina? Ma io direi assolutamente gli elettrodomestici, perché sono quelli che, se sono datati, ci comportano una serie di spese anche a livello proprio di bolletta di gas, elettricità, che comportano un dispendio naturalmente economico. Esatto, tanto se fate la ristrutturazione c'è il bonus fiscale anche per gli elettrodomestici al 50%, che sarà riconfermato in tutta probabilità. Esattamente. Architetto, grazie. Grazie a voi. Buona giornata. Altrettanto. La lasciamo tornare a disegnare la tua casa e noi intanto ridisegniamoci la faccia. Sempre in tema di ristrutturazione, ma questa volta con un occhio a noi stessi, in particolare alla pelle del nostro viso. Voi siete pronti da casa? Perché ci siete tutti. Io non voglio che manchi nessuno, perché oggi abbiamo un grande esperto che si occuperà di noi, ci dirà tutto quello che bisogna sapere fare per mantenere un viso giovane e fresco. Buongiorno al professor Antonino Di Pietro, dermatologo e direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis a Milano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Professore, anche oggi come ieri qui al CERSAI la parola d'ordine è ristrutturazione. In verità ci sono delle analogie tra la casa e il nostro viso. Lo strato più profondo del derma possiamo paragonarlo all'impalcatura, quello più superficiale, l'epidermide, all'intonaco. C'è poi anche un sistema idraulico. Insomma, professore Di Pietro, non ci manca nulla, quindi ci mettiamo subito al lavoro. E per prima cosa direi che possiamo un po' fare una convocazione ai nostri ascoltatori e delineare un po' il nostro campo campo d'azione. Oggi consigli per manutenzione ordinaria e straordinaria. Non è mai troppo presto per prendersi cura della propria pelle e non è mai troppo tardi per aiutarla a ritrovare bellezza e benessere. È corretto, professor Di Pietro? Quindi siamo tutti invitati. Certo, certo. Vede, la nostra pelle è un po' come i muri delle nostre case in cui abitiamo, tutto sommato. Quindi se vogliamo star bene con noi stessi o star bene quando siamo in casa, mantenere la pelle in perfetta efficienza e con un'ottima manutenzione direi che è indispensabile. Dobbiamo farlo, altrimenti poi crolla tutto. Professore, E certo, sì. Crolla tutto prima, mi piace, lei è veramente un po' crudele. Professore, voi dermatologi insistete molto sull'importanza di conoscere bene il proprio tipo di pelle per fare quella che lei ha accennato, una buona manutenzione e soprattutto di essere pronti un po' ad intercettare eventuali problemi sul nascere, perché ogni tipo di pelle ha le sue fragilità, le sue debolezze, ma anche no, i suoi plus. Eh sì, certo, va riconosciuto tutto questo. Ad esempio c'è chi ha una pelle con dei vasi capillari fragili, no? Allora c'è la cupe rose sul viso, che corrisponde un po' all'impianto idraulico difettoso di una casa. E allora bisogna far sì che questi piccoli tubi in cui scorre il sangue, è fondamentale per la salute della nostra pelle, sia efficiente. In questo caso allora ci saranno i flavonoidi, no, contenuti nei frutti di bosco, che sono importantissimi, quindi o dobbiamo arricchire la nostra dieta con i frutti di bosco o prendere degli integratori che contengono queste sostanze, così migliora il microcircolo, l'impianto idraulico diventa più efficiente e quindi la pelle si mantiene più sana. Ma ci può essere una pelle grassa o secca, quindi una pelle che si screpola con facilità, no, l'intonaco che viene via subito, e allora bisogna porre rimedio, oppure troppo grassa. E allora qui però entra in gioco la detersione. Professor Di Pietro, la pelle grassa però si difende meglio. È vero o è una leggenda? No, si difende meglio e si mantiene giovane un po' più a lungo. Ecco, è come avere una da problemi volte, quando siamo giovani, ma ci risparmia un po' di problemi quando siamo un pochino più age. Allora professore, noi vogliamo seguire un po' questa ristrutturazione iniziando dalle fondamenta, dall'impalcatura, quindi dallo strato più profondo fino ad affiorare in superficie. Ma dato che abbiamo convocato i nostri ascoltatori, i nostri centralini, come al solito, esatto. Si dice così. Sì, 800 24 00 24, vorrei subito passarle alcune delle nostre telefonate in modo da dare un consiglio mirato. Abbiamo due uomini, Vincenzo che ci chiama da Napoli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, benvenuti a tutti voi, professor Di Pietro, buongiorno. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno. Allora, io ho 48 anni e ho notato il sorgere su un solo occhio, nel contorno occhio destro, la presenza di xantelasmi. Ho fatto delle ricerche e cioè si apre un mondo a me ignoto, nel senso che perché non è un dermatologo, Vincenzo. Internet si perde. Allora, se lei Vincenzo, d'accordo, sì. Completare non ci domanda. Racconti tutto dello xantelasma, però di ipercolesterolemia non ne ho. Ci sono varie ipotesi. Come si curano? Se si possono curare e la causa molto, se veramente molto, può essere okay. Sì, molto Vincenzo. Vincenzo. Grazie, prof. Molto brevemente, non c'entra niente il colesterolo nel sangue. Ecco perché se fa gli esami del sangue il colesterolo va benissimo, è perfetto come nel suo caso. È il colesterolo che c'è nei tessuti, nella pelle. In questi casi può accumularsi in certe zone che sono le palpebre e da quegli accumuli un po' giallastri, piatti che si espandono, antiestetici perché non comportano nessun rischio dal punto di vista della salute, però sono antiestetici. Si devono rimuovere, lo si fa con il laser o se sono molto profondi chirurgicamente se serve, possono ripresentarsi, sono un estetismo molto comune, ma gli esami del sangue in effetti non servono. Non ci dicono nulla. Bene. Giorgio, buongiorno da Verona. Sì, buongiorno a lei, grazie. Buongiorno Giorgio, lei pensa a sua moglie? Sì. È un po' timida, non posso sentarti. Da tempo ha un rossore molto intenso al viso, più esattamente sulle guance, che è resistente alle varie terapie, insomma, come Minoxidil capsule, Miraso, qualcosa del genere, che è una pomata tra l'altro costosissima, costa 60 euro e non ha mai ottenuto nessun risultato, anzi direi che è peggiorata. Ci può aiutare il professore che è così bravo? Allora, consiglio. Professor Di Pietro, sì, in un minuto bella, senza brava, sì, Deborah allora, ha sottolineato 45, subito un aspetto. In 45 secondi, diciamo che quasi sicuramente sua moglie ha una forma di rosacea, per fortuna che si manifesta con questi arrossamenti, a volte anche piccole pustole, interessa le guance soprattutto. Si può guarire adesso dalla rosacea perché abbiamo scoperto che la causa principale è un piccolo acaro che vive sulla nostra pelle. E quando la pelle si indebolisce perché cambia il tipo di sebo che produce, questo acaro può svilupparsi, infiamma tutte le ghiandole del sebo e dà questi arrossamenti con una dilatazione dei vasi capillari, quindi c'è anche un problema idraulico. Abbiamo scoperto che si può combattere questo acaro, che è la causa principale, con una sostanza, si chiama ivermectina, si uccide insomma questo acaro, la rosacea si riesce a guarire, è una notizia recentissima dell'ultimo mese. Però il dermatologo dell'ascoltatore non lo sapeva, certo, e noi siamo sull'attualità, una primizia, siamo sulla notizia, certo. Grazie. Bene. Quindi è un prodotto che si usa in crema, professore? È un prodotto che si usa in crema. Questa ivermectina viene utilizzata anche per combattere la scabbia in altre situazioni, per combattere l'acaro in altre situazioni, come la scabbia, ecco, altre forme pruriginose. Abbiamo visto che questo farmaco uccide anche l'acaro che causa questi arrossamenti fastidiosi sul volto legati alla rosacea. Si mette tutte le sere questa crema e in poche settimane si ottengono degli ottimi risultati. Fantastico, guarda, perché la pelle poi è, no? Tutti i problemi della pelle noi li sentiamo emotivamente, hanno delle ripercussioni sulla nostra autostima, nella nostra fragilità. Queste e tante altre novità insieme al professor Antonino Di Pietro, 800 24 00 24. Adesso vediamo che novità ci presentano i mercati. Guarda, vedo una bella giornata, sono contenta che anche oggi quantomeno tentiamo di concludere in bellezza questa settimana. Tra poco Invesco, per i tuoi risparmi investi con noi. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Lo sanno tutti. Rocchetta, acqua della salute, depura l'organismo. Plin plin. Cuore e denari. Rapidi, siamo tornati. Oggi ci occupiamo della pelle del viso e la stiamo ristrutturando insieme a un grandissimo esperto, il professor Antonino Di Pietro, che abbiamo il piacere di avere in linea con noi, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis a Milano, che ci ha dato subito una grandissima novità per la terapia della rosacea, un problema che affligge molte persone, donne in particolare, professor Di Pietro? O equamente distribuita? Soprattutto donne, ma direi che siamo quasi alla pari. È abbastanza democratica. Da 40 anni in su, quindi quando comincia ad esserci la maturità. Per tanti anni si parlava di acne rosacea perché sembrava quasi una forma di acne, adesso invece parliamo proprio di rosacea come patologia a sé stante, molto frequente. Allora, professore, quindi sì. Ristrutturiamo e vogliamo fare le cose per bene. Quindi iniziamo dalle basi, dalle fondamenta, dalla parte più profonda della nostra pelle, che è come un'impalcatura, proprio il compito di sostenere il viso. Se cede, l'effetto bulldog è assicurato. Sì. Allora, professore Di Pietro, la prima cosa che possiamo fare è mantenerla sana e possiamo farla nutrendola nel modo corretto. Sì, certo, vedi, la pelle la possiamo paragonare a un muro. È un muro, cioè la parte interna fatta dai mattoni, che nel nostro caso è il derma, quindi la parte più profonda, circa un centimetro di spessore per intenderci, e in questo centimetro c'è collagene, elastina, vasi sanguigni, le ghiandole, c'è proprio tutta la struttura della nostra cute, l'impalcatura. Ecco, questa parte noi la possiamo aiutare anche con l'alimentazione. Ricordiamo l'importanza, prima lo accennavamo, nel mantenere una buona ossigenazione di queste cellule e quindi favorire una buona circolazione. I frutti di bosco che contengono flavonoidi dovrebbero essere al primo posto. Ecco, ricordiamo i flavonoidi che sono presenti anche in molti integratori. certe vitamine, la vitamina E, la vitamina F, la vitamina C sono altrettanto importanti, come anche degli amminoacidi che possiamo trovare negli ortaggi o nella frutta secca, frutta secca che è ricca anche di omega 3, di omega 6, e quindi per l'idratazione di tutta questa parte profonda. Per cui l'alimentazione diventa ricca, importante, importantissima direi per la salute. Però dove non arriva, naturalmente, noi partiamo sempre da un'alimentazione equilibrata, ricca di nutrienti, che però è possibile attivare le cellule del derma anche con dei trattamenti specifici. Uno in particolare, il professor Di Pietro Letto, utilizza la luce LED. Questi fasci di luce di diversi colori che aiutano a migliorare proprio lo stato di questa impalcatura, renderla più forte, più sana. Mi racconta come funziona? Noi dermatologi abbiamo scoperto negli ultimi anni l'importanza, o magari riscoperto in alcuni casi, l'importanza della luce per la nostra pelle, perché abbiamo visto che ci sono determinate luci che possono aiutare delle funzioni della pelle e le cellule, come altre invece possono frenare alcuni processi che avvengono nella nostra cute, nella nostra pelle. Abbiamo visto che le luci che vanno dal giallo al rosso possono stimolare la formazione di nuovo collagene e di nuova elastina, quindi attivano, stimolano la cellula. Ma questo esperimento è stato fatto anche su delle piante, su dei vegetali, dove si è visto che piantine di grano che vengono illuminate con luci di questo tipo, quindi luci calde, migliorano la propria vita. Così vale anche per la nostra pelle. Al contrario, le luci blu frenano le infezioni. Frenano le infezioni, scusi, l'ho interrotta, ma naturalmente si tratta di luci che sono delle lampade professionali, non è che uno si va a prendere la lampadina gialla. Sono luci che vengono utilizzati attraverso i LED, che permettono di poter usufruire, quindi emettono una luce, si dice monocromatica, cioè con quel particolare colore. Ricordiamo che il colore corrisponde a delle lunghezze d'onda, e quindi ha dei raggi fisici ben specifici che con la loro energia riescono a raggiungere una certa profondità e stimolare la vita, il metabolismo delle cellule. Qual è il momento migliore per sottoporsi a questo tipo di trattamento? È preventivo oppure si esegue in presenza dei primi cedimenti? Dove funziona meglio? Allora, se pensiamo al momento migliore, quale età della nostra vita, noi dermatologi lo poniamo intorno ai 30 anni, diciamo che fino a circa 30 anni, con tutte le varianti. Ci ha già smontato, professor Di Pietro, glielo dico, ecco, ahimè. Ci dia una buona notizia. Io sono quasi senza speranze se penso alla mia situazione personale, ma direi che fino a 30 anni, grosso modo, noi abbiamo ottime capacità di riparare tutti i danni che ogni giorno vengono compiuti sulla nostra pelle semplicemente dai raggi luminosi, dai raggi solari. Poi dopo i 30 anni questo bilancio non è più alla pari, quindi vengono distrutte una grande quantità, ma ne riusciamo a fabbricare un pochino meno. Ecco. Quindi è intorno a questa fascia di età che conviene dare un aiuto, ecco, sostenere il lavoro delle nostre cellule. Abbiamo visto che le luci possono essere importanti, noi stiamo lavorando molto sull'importanza delle luci, ci sono delle ricerche molto interessanti da questo punto di vista, ma sono importanti anche delle sostanze che noi possiamo far arrivare qui in profondità, in questo centimetro della nostra pelle. E mi riferisco ad esempio all'acido ialuronico. È una delle sostanze più usate proprio per migliorare la struttura della pelle, ed è una sostanza che conoscete bene da anni, che ha diverse proprietà. È una sostanza naturale, sono ormai più di 50 anni che in medicina si utilizza l'acido ialuronico, dapprima per l'occhio, per i problemi che riguardano la secchezza oculare, e poi in campo ortopedico per le articolazioni. Negli ultimi 25 anni è entrato in maniera prepotente anche in dermatologia e anche per frenare i processi di invecchiamento. Pensi che noi in laboratorio riusciamo a far crescere la pelle grazie all'acido ialuronico, pezzettini di pelle, che in realtà è uno zucchero, professor Di Pietro. Sì, è un polisaccaride, è uno zucchero. Questo è importante perché non dà allergie quando viene messo a contatto o entra nella nostra pelle, e viene utilizzato dalle cellule come un potente nutrimento, per cui vengono stimolate le cellule a produrre più collagene e più elastina, e questo serve per frenare i processi di invecchiamento. Ma posso chiedere, perché in farmacia si vedono queste distese ovviamente di compressine, no? Di acido ialuronico, ma in alternativa anche creme a base le creme, di acido, esatto, oppure voi professor Di Pietro suggerite, o ci vuole la punturina? Dobbiamo chiarire un po' questo. Integratori che contengono acido ialuronico possono servire, non sempre, ma nella graduatoria però, diciamo, sono in terza perché posizione, con difficoltà riescono ad arrivare fino alla pelle, ecco, si perdono un po' per tutto l'organismo e quindi arrivano in piccola quantità, quindi qualcosina fanno, non come spesso si legge. Anche sulle creme bisogna essere molto chiari, perché l'acido ialuronico è una molecola molto grande, non riesce a passare attraverso gli strati della pelle. Quindi dà un aiuto in superficie, perché trattenendo molta acqua idrata la superficie, ma in profondità l'acido ialuronico sotto forma di crema non riesce a penetrare. È come voler far passare un tir attraverso il buco di una serratura, ecco, non ci passa. Fa un po' fatica. Fa un po' fatica. Però si professor... può mettere più in profondità. A questo punto servono dei microaghi, dei minuscoli aghi, che riescono a far arrivare a pochi millimetri di profondità l'acido ialuronico, superando quella barriera impenetrabile, e lì allora e si reagisce. Si può lavorare, si possono anche, no, spianare le rughe, si può dare accanto alla bocca, diciamo perché ce li abbiamo tutti. Noi dermatologi utilizziamo poi varie concentrazioni di acido ialuronico, certo. No? Ci sono varie formulazioni, a secondo della qualità dell'acido ialuronico si può sfruttare di più l'azione riempitiva, e quindi se ci sono dei vuoti, ad esempio quelli che si creano ai lati della bocca, no? Le pieghe ai lati della bocca, le pieghe ai lati degli occhi, tra il naso e le labbra. Sembra che mi guardi. E non è neanche qua, professore, perché ci sta descrivendo così alla perfezione? Senta, professor Di Pietro, prima di andare a sentire le informazioni sul traffico, noi abbiamo già dato una grande novità, che è questa per la cura della rosacea, sì. Ivermectina. Ribadiamolo, facciamo lo spelling. Ivermectina. Comunque. Ma ci sono anche delle novità nel campo della cosmesi, siete riusciti, lei diceva che sì. È importante far arrivare il nutrimento alle cellule, esatto. Sappiamo anche i gusti delle cellule, a loro piace, certo. Lo zucchero, gli zuccheri direi, sì. E avete trovato una formula per cui, abbinando due principi attivi, le cellule hanno il loro nutrimento proprio portato, trasportato lì in casa loro sono felici. E troviamo già questa cremina in farmacia? Ci sono già le sostanze, il professor Di Pietro ce le dice tra poco, e che promettono dei risultati molto interessanti anche nel breve termine, proprio perché le cellule sono nutrite di quello che piace a loro, e nutrite proprio arrivano lì in casa. Ottimo. È come la consegna a casa. Mi, no? Sento già più distesa. Anch'io mi sento più già bella. Intanto, se avete macchie e macchioline, adesso dopo le informazioni sul traffico, una batteria di domande per il professor Di Pietro, ma vogliamo assolutamente sapere tutte le novità. A tra poco. Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Vi presenta. Cuore e denari. Salviamoci la pelle. Che bello brucia. Oggi ci occupiamo della pelle del nostro viso, che può risentire del passaggio degli anni e quindi segnarsi, ma noi possiamo fare una buona manutenzione conoscendo il nostro tipo di pelle, facendoci anche aiutare dai nuovi trattamenti che la dermatologia mette a disposizione. A proposito di invecchiamento, oggi lo sai che è la giornata dei nonni? Allora io saluto la mia mamma, sì. E a proposito di invecchiamento, noi oggi ci stiamo occupando dell'invecchiamento della pelle del nostro viso, ma si è aperto aperto proprio a Roma il congresso internazionale di oftalmologia della Fondazione Bietti, realizzato col sostegno della Fondazione Roma, che si occupa del ruolo dell'invecchiamento sulla salute oculare, farà anche un punto sulla malattia diabetica. Si apre proprio oggi, si conclude poi il 4 di ottobre. In occasione del mese di ottobre, naturalmente, chiederemo ai relatori di venirci a raccontare tutte le anticipazioni che ci sono in questo settore. Quindi tra pochissimo una nuova puntata sulla salute oculare con un approfondimento sul ruolo della malattia diabetica. Ma intanto, professor Di Pietro, noi abbiamo sistemato l'impalcatura, ora saliamo ai piani superiori, arriviamo all'epidermide, l'intonaco, che si può ingrigire, segnare, macchiare, lì basta vederlo. Io dicevo in apertura che la natura è generosa e ci rende presbiti, e quindi il contatto con lo specchio diventa un pochino più morbido. Comunque noi dobbiamo lavorare e fare una buona manutenzione per mantenerlo, riportare il nostro intonaco agli splendori iniziali. Iniziamo dalla manutenzione ordinaria, professor Di Pietro. Certo, la manutenzione ordinaria la possiamo fare anche con delle creme che forse impropriamente vengono chiamate negli ultimi tempi cosmetici, perché sono un vero e proprio aiuto, quindi non sono un abbellimento e basta, ma che sono in grado di poter nutrire, migliorare, rinforzare le cellule. Ne è prova un recente composto che è stato messo a punto dalla ricerca dermatologica, che è il fospidin. In questo caso il fospidin ha rappresentato negli ultimi tempi una svolta importante, perché ha confermato l'importanza di due sostanze di cui è composto. Sono i fosfolipidi e la glucosamina. Chiariamo subito il perché. I fosfolipidi sono l'involucro delle nostre cellule, rappresentano la sostanza principale di cui è fatta la membrana delle nostre cellule. E le cellule della nostra pelle ogni giorno vengono bersagliate, colpite, distrutte, bucherellate dai raggi ultravioletti, che come tanti spilli penetrano e bucherellano le nostre cellule. E allora, a un certo punto, dopo i fatidici 30 anni di cui parlavamo prima, le cellule non riescono più a richiudere velocemente questi buchi, quindi diventano sofferenti. E abbiamo visto che i fosfolipidi applicati sulla cute riescono a penetrare molto velocemente, riparano tutti questi danni, questi buchi, e rendono le cellule più forti, in grado di lavorare meglio. Ma l'altra cosa importante è aver scoperto che sulla superficie di queste cellule ci sono degli zuccheri, sono i glicani. Tra quelli più presenti, più importanti, è la glucosamina. Ecco, perché sono importanti questi cristalli di zucchero? Perché permettono alle cellule di dialogare tra di loro, cioè le cellule si scrutano, si guardano, si osservano tra di loro, come in una città tra i vari palazzi, attraverso le finestre si riesce a vedere quello che succede nel palazzo accanto. Allora, se il palazzo di fronte sta bruciando, noi ci mettiamo in allarme. Certo. Ecco, immaginiamo quel che succede alle cellule col passare degli anni: questi cristalli diminuiscono di quantità, non sono più così efficienti, quindi le cellule non riescono più a dialogare, e questo è una delle cause di invecchiamento. Ecco, è possibile adesso far arrivare alle cellule dei nuovi glicani, rinforzarle, quindi fosfolipidi più glicani rappresentano il grosso passo avanti della nuova cosmesi dermatologica, cioè quella funzionale. E questo composto, il fospidin, questa è la seconda novità importante. Questa, ecco, è una notizia che naturalmente i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici gradiranno, perché i risultati sono visibili anche nel breve tempo, vero, sì, professore? Sì, da ricerche che abbiamo effettuato abbiamo notato che c'è un miglioramento del turgore, dell'elasticità cutanea visibile, molto importante, già solo dopo le prime settimane di applicazione. C'è un miglioramento del 70% dell'elasticità cutanea dopo 15 giorni. Del 70%? Sì. Ci si iniziano subito alle antennine. Importante. Esatto, praticamente allora, 10 anni in meno di vita. Noi dobbiamo andare piano, perché sennò sembriamo poi delle bambine. Troppo belle. Troppo. Più di così? Noi dobbiamo darne pochissimo. Pochissimo. Allora, pochissimo. Rosy da Torino, buongiorno. Poi andiamo a Silvano da Varese, poi 800 24 00 24, per chi vuole sapere occhiaie, borse, macchiette, macchioline. Rosy, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho 67 anni e sono veramente un caso disperato, perché sono lenti ginosa, non ho, il professore adesso me lo confermerà, sono lenti ginosa, quindi ho la pelle secchissima, patisco sole, vento, a 20 anni avevo le rughe e adesso per me è diventato un problema, nonostante a questo punto, ascoltando lui, penso di non aver mai trovato il medico giusto che mi aiuti. Io ho sempre usato creme, non ho mai preso scottature perché non sono un tipo da spiaggia, quando vado in montagna ho non una sono un tipo da spiaggia, carina. Rosy, allora, professor Di Pietro, sì, un caso disperato? Beh, Rosy ha una pelle delicata perché da quel che ho sentito avrà un fototipo 1, 1.5, cioè sono le situazioni in cui la pelle si difende male dai raggi ultravioletti, si arrossa con facilità. Quindi diventa importante e necessario proteggerla al massimo, sia con le creme per i raggi solari, ma con creme che possono, come dicevamo prima, aiutare e quindi proteggere le cellule in modo che possono riparare più velocemente i danni. È una pelle da principessa, tutto sommato, quindi vede, Rosy, ecco, possiamo quindi catalogarla, deve nutrirla a fondo, ecco. Ma il composto di cui lei ci ha parlato potrebbe andare bene per Rosy, sì, va bene per tutti direi i tipi di pelle, esatto, questo Fospidin. Se lei predilige questi nuovi prodotti che contengono questa nuova sostanza, questo nuovo composto che è il Fospidin, sicuramente potrà averne un beneficio, a maggior ragione perché le sue cellule si distruggono in grande quantità e molto più facilmente rispetto a pelli più forti. Quindi il Fospidin in questo caso potrebbe essere già una buona soluzione. Abbiamo Silvano che ci chiama da Varese all'800240024. Benvenuto e buongiorno. Buongiorno a voi. Una domanda per il professor Di Pietro. Io consiglio ai vari pazienti un trattamento mattutino con yogurt naturale, senza coloranti né conservanti chimici assolutamente, con vitamina C, sempre proveniente dalla frutta, per cui naturale, un tamponamento, per cui un leggero massaggio superficiale, dopodiché l'applicazione di vitamina E naturale, anche questo un leggero massaggio fino ad assorbimento, ovvero DL alfa tocoferolo. Volevo sentire professor Di Pietro cosa ne pensa lei. Perché lei dice consiglio ai miei pazienti, perché lei è un medico? No, è un naturopata? Io sono naturopata. Sì. Sì. Dunque, tutto ciò che può servire a migliorare la vita delle cellule, il nutrimento, un maggior afflusso di sangue soprattutto, è benefico. Io sono d'accordissimo. Spesso consiglio ai miei pazienti di applicare la crema e in contemporanea fare una sorta di massaggio. Il massaggio, soprattutto con delle pressioni che variano, quindi appoggiare le dita, comprimere un po' sulla cute e poi rilasciare, con un movimento a raggiera, quindi partendo dalla parte centrale del naso verso la parte laterale del viso, può facilitare la circolazione verso le cellule della pelle e quindi questo è benefico, per cui sono ottimi consigli quello che lei dà. Vanno benissimo anche la vitamina C, va benissimo la vitamina E, adesso abbiamo scoperto i fosfolipidi e la glucosamina col Fospidin, direi che questa è la strada giusta, la rigenerazione è tutto ciò che può aiutare le cellule a vivere meglio. Professor Di Pietro, tra l'altro, a proposito di consigli, io leggo molto il suo, vado molto spesso sul suo sito, sul suo blog. Lei, io ho visto, noi non ce l'aveva mai detto, ma a chi legge il suo sito, lei ha suggerito dopo lo strucco serale di passare a me a te non ce l'ha detto. No, perché mi bruciano sempre gli occhi. No, non di so passare mai per la pelle un cubettino di ghiaccio. Professor Di Pietro, è ancora giovanissima, quindi ancora non è il momento. Un consiglio così a questo mercato. Possiamo darlo, vero? Come passaggio finale della detersione serale, professor Di Pietro, funziona? Un cubetto di ghiaccio? Sì. Sì. Può essere utile perché il freddo, intervallato poi da un ritorno a temperatura ambiente, favorisce l'apertura e la chiusura dei vasi capillari. Come la doccia, comporta una sorta calda, di ginnastica, no? Di ginnastica verso questi vasi che hanno una parete muscolare, quindi si esercita. Questo aprire e chiudere i vasi capillari facilita una buona circolazione del sangue e quindi l'ossigenazione delle cellule. Ecco, perché volevamo occuparci, dopo che ci siamo occupati dell'impalcatura, dell'intonaco, anche dell'impianto idraulico. Abbiamo, non lo so se abbiamo tempo, Valerio da Forlì, resaci al naso, trattato con laser, professor Di Pietro, in 10 secondi, un po', sì, diciamo che non le do molto tempo, però. Sì, velocissimi, il laser è un ottimo strumento che ci offre l'alta tecnologia, va utilizzato bene perché come una macchina da corsa si possono compiere anche dei danni, ma sì, con il laser si risolvono grossi problemi sulla nostra pelle, le macchie, si possono chiudere i vasi capillari, si può rigenerare lo strato più superficiale, quindi la superficie dell'intonaco, diciamo la vernice, no, che c'è sulla parte più esterna, migliorando quindi il colore generale della pelle. Per cui il laser va bene, ma usato con grande cautela. Certo, da mani espertissime. Professor Di Pietro, lei tornerà a trovarci, parleremo di laser, parleremo di peeling, le domande sono arrivate tantissime. È vero. La ringraziamo, esatto, per essere stato con noi. È stato a presto. Buonasera. Grazie. Allora, noi prima dei saluti dal Cersaia di Bologna, non le piacciono i saluti, ma noi che siamo le sue zie preferite gliele facciamo lo stesso. Ringraziamo oggi, proprio di cuore. Di cuore Isotta Scenna, che oggi termina, speriamo solo temporaneamente di lavorare con noi, ma noi ti vogliamo tanto bene, grazie per tutto quello che hai fatto. Grande per queste Isotta. Per queste due scombinate qua, per tutta la pazienza. Non metterti a piangere. Perché piangiamo già noi. Piange già Marco che rimane con noi, poverino, da Milano. Salutiamo Marco Lombardo. Noi lunedì torniamo a Milano e ci siamo. Buon weekend a tutti.